Metto qua, così. Buonasera, siamo... Sentite? Ci sentite? Tutti quanti. Siamo qui con Paolo Saporiti e si chiude così la due giorni del Record Store Day di Lucca. E ci abbiamo con noi Paolo Saporiti che presenta il suo ultimo disco. Bisognava dirlo che... È un titolo lungo. Bisognava dirlo a tuo padre che a fare un figlio con uno schizofrenico avremmo creato tutta questa sofferenza. Titolo impegnativo. Abbastanza. Come mai la scelta di fare un disco subito pochi mesi dopo quello invece che porta il tuo nome, Paolo Saporiti? Questo è l'ultimo. Questione di urgenza, direi, nel senso che ho sentito impellente la necessità di tornare in studio e provare a comunicare delle cose che probabilmente non erano uscite completamente dal disco prima. Il disco prima è un disco che per me era un punto di arrivo di veramente una lunga serie di anni di lavoro, perché era il connubio tra quello che è il mio mondo di chitarra acustica e voce e quello che è il mondo della sperimentazione fatto e suonato da musicisti del sottobosco milanese, che poi sottobosco tanto non è una figura come Sciabiere e Riondo, che sono molto di riferimento a Milano, musicista di After Hours. Fatto quel disco mi sono reso conto che il progetto e il risultato era molto buono, ma che si poteva provare a comunicare qualcosa in più e in qualche modo facilitare anche l'entrata delle persone in quel mondo lì. Perché comunque giocare con la chitarra acustica e la voce e presentare un mondo noise incastonato nella chitarra e nella voce è comunque un linguaggio che se uno non l'ha sviluppato, non l'ha ascoltato negli anni, probabilmente può risultare abbastanza ostico. Quindi una delle idee alla base è cercare di splittare, spaccare in due quel mondo lì e restituire a delle persone magari non avvezze a quel tipo di mondo una realtà cantautorale un filino più tradizionale rispetto a quel disco, e allo stesso tempo però rispettare in maniera rigorosa, se non ancora più forte, il mondo della sperimentazione e della ricerca. Quindi è un disco spaccato in due. È per questo che ci sono due versioni delle stesse canzoni. Sì, la ricerca è proprio quella, cioè cercare di andare in qualche modo incontro a chi ascolta questo tipo di musica, chi incontra un mio disco, e cercare di coadiuvare per una volta l'entrata e le emozioni con gli arrangiamenti, e invece dall'altra parte spingere ancora di più sull'acceleratore per quel che riguarda la sperimentazione. E quindi cercare veramente di destabilizzare. A me l'idea di destabilizzare è una cosa che corrisponde molto e piace molto. Siccome comunque il mondo chitarra e voce è un mondo conosciuto, cioè partiamo da Bob Dylan e veniamo avanti, ma il mondo nasce ancora prima. Quello che ho cercato di fare è stranire ulteriormente quello che può essere il mondo di un italiano che per un po' ha scritto in inglese e adesso scrive in italiano, quindi prova comunque a trovare una forma di comunicazione più immediata col suo pubblico, o con un pubblico ipotetico, pubblico italiano, e allo stesso tempo però cerca di non perdere quello che è il mondo del mettere in difficoltà e comunque chiedere un movimento anche a chi ascolta. Io credo che ci sia veramente necessità di sbrogliare un attimino la situazione in Italia, cioè bisogna riportare la gente a ascoltare coscientemente, ma non solo ascoltare, è un discorso che veramente riguarda tanti aspetti della nostra esistenza. Io direi adesso di ascoltare allora qualcosa dall'ultimo album. Allora, faccio A modo mio, che è il primo brano che apre. Sono stati classificati e nascevano quasi come due EP. Questo disco è una faccia bianca e una faccia nera. Adesso faccio una versione acustica, ovviamente, del brano primo, che è intitolato A modo mio. Nel disco lo trovate, nel disco bianco, arrangiato con tutta una serie di musicisti per me splendidi, perché sono amici oltre che grandi musicisti, tra cui Cristiano Calcagnera alla batteria, un personaggio che suona buzzucchi e dobro, si chiama Roberto Zanisi, un contrabbassista che si chiama Luca Pissolini, e basta, ve la suono a modo mio. Ti sei definito un autodidatta. Cosa significa questo, essere un autodidatta, e come lo porti oggi nelle tue canzoni? Beh, lo porto in tutto, nel senso che sono un autodidatta, non è che ho detto soltanto di esserlo, è proprio così, nel senso che la chitarra l'ho imparata ascoltando parte dei musicisti che venivano passati qualche istante fa in questo spazio meraviglioso che riscopro dopo averlo visto come spettatore dei concerti che vengono dati in questa piazza. E è un piacere per me vedere che in qualche modo il lavoro di una persona che si inventa e che si crea da sola, alla fine dei conti viene anche un pochino riconosciuto da un mondo di persone che abitano il mondo in una maniera magari più consapevole dal punto di vista tecnico e della conoscenza delle cose. Io cerco di avere un approccio il più sincero e più vero possibile a qualche cosa che riguarda anche la voce, nel senso che ho studiato poco canto, ho cercato di andare molto a fondo alle emozioni come persona e come uomo. Occhio a farvi schiacciare. Non sarebbe bello. Che no, che arrivo io, anch'io ieri da un'esperienza abbastanza inquietante, quindi lascerei stare. No, non sarebbe bello. E ora scrivi in italiano e ti scrivi in italiano, però prima hai fatto molto in inglese. Sì. Come questa scelta, da che cosa è stata dettata? Come sei arrivato all'italiano? Ha a che fare moltissimo con l'idea di urgenza di prima, nel senso che l'italiano è il modo migliore, ho capito, per poter comunicare qui, oggi. Io arrivavo da un mondo fatto di inglese americano, semplicemente perché da quando sono nato mi sono trovato le cuffie in testa, e se non mio padre che ascoltava comunque musica sparsa per casa. E quindi per me è stato abbastanza diretto il filo e la soluzione musica a tutto quello che era la mia esistenza, nel senso che dalla mattina alla notte, all'addormentarmi e a prendere sonno, tutto si muoveva con la musica, con le cuffie nelle orecchie. Questa era musica americana, inglese, quindi per un po' di tempo la mia idea musicale era strettamente americana. Credo che poi questo mondo chitarra e voce sia stato conosciuto, sviluppato in maniera particolarmente ricca in America, no? E quindi la deriva italiana è un qualche cosa che ha a che fare veramente con la necessità di essere capito, e ha molto a che fare con l'ultimo disco e con l'idea di andare sempre più verso gli altri e non rimanere soltanto nella mia idea o nel mio mondo. Quindi è cambiato il tuo rapporto con il pubblico fondamentalmente? Sì, beh, ma credo che si veda un pochino anche da questa situazione, nel senso che sta succedendo che quello che io faccio incontra le persone e le persone reagiscono a questa cosa. È una cosa che è un po' più semplice rispetto all'inglese. L'inglese in Italia non è così fruibile, condivisibile. Io stesso che amo l'inglese, in tantissimi casi non ho mai ascoltato i testi, perché la musica non è fatta solo di comprensione e di testi. Questa cosa è una cosa che a me rimane anche in italiano, nel senso, io credo moltissimo nel fatto che la musica sia una delle forme di comunicazione più importanti che abbiamo come esseri umani, e sicuramente non passa tutto attraverso i significati delle parole. Passa anche attraverso le note. Passa attraverso le note, passa attraverso, secondo me, la voce, che fondamentalmente è uno strumento umano, è lo strumento più vicino all'essere umano che abbiamo. Non c'è modo migliore per far passare la propria anima, il proprio modo di sentire, il proprio modo di essere. Io credo moltissimo, anche l'altro giorno sentivo delle cose, ogni tanto capita di accendere la televisione e vedere non X Factor, ma quelle robe lì, The Voice, dove secondo me i rapporti con le cose sono tutti sfasati, non c'è un vero rapporto di esperienza con la musica e col vivere la musica da passare agli altri, è una presa in giro, è un qualche cosa che comunque continua a vendere un prodotto che viene già venduto da altre parti, e sarebbe un sogno invece vedere che venga venduto e passato per la prima volta qualcosa che ha a che fare con la musica dell'uomo, non dei mercati. E allora diamo spazio alla musica. Allora, faccio un brano quasi intitolato Per l'amore di una madre, ed è un brano sempre dell'ultimo disco, una cosa un po' più intima rispetto al pezzo prima. Mi sei annotato, sai? Siamo al limite. Ok. Ah no, aspetta, sì, vediamo, così, vai. Ciao. Su quell'altare come un cane abbandonato alla TV, e se fosse per mio padre non vivrei qui accanto a lei ma tra di noi, dove il mondo è un po' più blu e dove il sangue non è sangue, dove il vino non è meno di una tanica di pile e ipocrisia, e quel silenzio di una lama che mi squarcia, quella gola che mi toglie la pistola eppure tu. Sia tradire lei, male non fa, se poi muori tu, tradire dire a lei male non fa. E la mia tempia non è tempia come il pane, non è vino se al telefono compari pure tu. E dove volano le aquile che trafugano i tesori che una volta depredavi insieme a lei. È quell'amore di una madre che mi porta a vomitare tutto quello che mi passa per qua giù. È quell'amore di una madre che mi porta a lacerare ogni bisogno che non salvi prima lei. È quell'amore di una madre che ti lascia per amare qualcun altro che non sei nemmeno tu. È quell'amore di una madre che ti lascia macerare per rispetto di quel figlio che non sei mai stato tu. Comunque sia, tradire lei male non fa. Se poi muori tu, tradire lei male non fa. Comunque sia, tradire lei dalla regia di alzare un pochino la chitarra, che da fuori si sente benissimo. Meglio. Quindi abbiamo parlato di quella che è un po' la scena musicale italiana. Ma te cosa ascolti di musica? Di tutto ultimamente, nel senso che sono uno che è nato e cresciuto con Crosby, Stills & Nash, Tom Waits, Neil Young, nello specifico Johnny Mitchell, quindi tutto quello che è il mondo americano della West Coast dagli anni fine 60 in avanti fino ad oggi. Mi sono poi spostato su quello che è il mondo dell'indipendente, anche se con difficoltà, nel senso che non sempre mi corrisponde quello che ascolto. Sono andato sempre di più verso quello che è un mondo di ricerca e di intenzione. Ho cercato chi in qualche modo rispettava i mondi che a me piacciono. A me piace comunque la canzone, la melodia, l'idea di espressione profonda di quello che la persona sente. Non è una cosa così facile da incontrare oggi, nel senso è un qualche cosa che corrisponde agli anni che abbiamo abitato. Oggigiorno bisogna andare molto a scavare e ricercare. Questa è una cosa che a me piace moltissimo della situazione attuale. C'è un qualche cosa di perverso nella situazione di oggi, nel senso che c'è questa possibilità profonda di poter andare a cercare a 360 gradi grazie ad internet e ad attingere da dei mondi, ma anche in quel caso lì bisogna avere personalità. La ricerca non è una cosa spalmata a 360 gradi. Comunque la cosa che mi piace di un mondo virtuale, che per un attimo secondo me è stato frainteso come potesse essere qualcosa di assoluto e che potesse arrivare a tutti in maniera indiscriminata, in realtà bisogna muoversi, bisogna sapersi muovere, bisogna cercare. Quindi per un pochino ho temuto che internet e il mondo della rete potesse uccidere le cose, le ha uccise da un punto di vista magari più della vendita e della fruibilità di una serie di cose dirette per chi offre materiale. Però indubbiamente ha offerto tantissime cose, ha offerto il fatto che chiunque di noi possa inventarsi e avvicinarsi a quel mondo che, di cui mi hai fatto la domanda prima tu, il mondo dell'autodidatta. Il mondo dell'autodidatta vive di una possibilità come internet. Io per imparare a suonare la chitarra, quando avevo 14-15 anni, avevo iniziato a scrivere in America e avevo iniziato a cercare chi poteva inviarmi delle videocassette didattiche. Non so, c'era Cow Conan che per la prima volta faceva dei video dimostrativi di come suonare la chitarra acustica. Io a quell'età ho iniziato a farmi mandare, spedire VHS, si parla di VHS perché siamo un po' indietro nel tempo, e io trovo che comunque l'aspetto nodale è la motivazione, è il fatto che una persona abbia delle cose da chiedere e delle cose da dare. E quello che a me piacerebbe riuscire a comunicare con la musica è proprio questo, cioè fare una selezione in un mondo di possibilità, cercare di parlare ad un mondo vero, che cerca delle cose vere, che non sta dietro a fronzoli e tante cose, ma che cerca di farsi nutrire e allo stesso tempo restituire. Perché veramente ascoltare i dischi che stiamo producendo ultimamente richiedono le persone. E io ho bisogno di quel mondo lì, sono stufo di un mondo di passivi che si fanno indottrinare, ma neanche indottrinare, perché non siamo neanche nel mondo delle persone indottrinate, siamo nell'assenza più totale. Questo è il problema. Che prendono tutto e basta. O non prendono niente, che sì, non c'è una gran differenza, nel senso che alla fine dei conti quello che manca oggi è la scelta. È la stessa cosa alla fine. Cosa ci fai sentire? Allora, potremmo pescare una cosa relativamente dal passato, che è intitolata Sangue. Stiamo andando con i tempi abbastanza, perché la stiamo prendendo molto larga. Allora, questa è intitolata Sangue, ed è una cosa che se alla fine arrivo col sentire giusto, la collego a un pezzo che magari avrete modo di riconoscere. Non dico che cos'è, poi vi chiedo che cos'è. Poi li interroghiamo. Senza di te io non credo che resisterò un momento di più. Se trovo quelle immagini di prima che non fossi nata tu, qui nel centro di Dio. Comincerei strappando quelle parti di noi due che poi io ti chiederei di bere io al tuo fianco, tu al petto mio, rubandoci l'abbraccio di una vita che non abitiamo più. Tra compagni di Dio. Io mi sorprenderei se poi fossi tu a scegliere una strada al posto mio, a eludere quei lampi di una vita che non controlliamo più. Tra compagni di Dio. Io mi spezzerei e mi sporcherei e forse capirei e poi vi scorterei. Morirai. stands in deep position, all the stand will take control. Che ho scritto quando avevo 18 anni, è intitolata Erika. Sono tanti anni fa, ma è un qualche cosa che mi corrisponde tutt'oggi. E fa parte del disco prima, non quello che presento oggi, anche se oggi in realtà presento me stesso in tutto e per tutto. Ed è questo disco qua. Questo qua è il mio bisnonno e quello a fianco è mio nonno. Il bisnonno non l'ho conosciuto, il nonno sì, è una persona a cui ho voluto un bene totale. Una vita lontano dai posti più comodi, cominciare da nulla in America. Sono fatto così per uscire da qui, per riuscire a sognare, ho bisogno di perdere. Erika, come posso riuscire ad amare se sei ancora qui? Erika, come posso riuscire ad amare se sei ancora qui? Sì. tra i dettagli del mondo, come il tempo profondo, come è facile perdere il senso di quello che dici e di quello che senti. Sono fatto così per uscire da qui, per riuscire a sognare ho bisogno di perderti. Erika, come posso riuscire ad amare se sei ancora qui? Erika, come posso riuscire ad amare se sei ancora qui? Grazie mille, buona domenica. È come naturale cominciare da una mano, percorrere una strada che ci porti più lontano, passare le mie dita tra le valli della vita, succhiare fino al male per donarti la mia vita. Puoi prendere una mano e carezzarti piano piano, sospendere parentesi che hai chiuso tra le righe di un attimo di fuga consigliato dalla vita. Andiamo avanti con un'altra canzone. Sì, sì, che cosa pensi? Io non ho pietà. Sì. Ah, questa è intitolata Io non ho pietà. Sempre tratta dal disco Paolo Saporiti. Perché non cambi e non scegli me? Perché? Grazie. Lei ha lasciato l'Universal per prendere una strada indipendente, non è stata una scelta da poco. Ma allora, la questione Universal è una questione un po' particolare, nel senso che ci sono degli aspetti di quello che è il mondo del mercato e delle major che non sono così facilmente comprensibili se non utilizzando delle metafore. Gli indiani d'America non è che sono andati a spaccargli le gambe per apprendere qualcosa o per conoscere qualche cosa e renderlo proprio, no, sono andati per demolirli e quello che erano usarlo. Le major non è che vanno a prendere un personaggio indipendente per valorizzare il personaggio indipendente indipendentemente da tutto, lo portano in casa per un discorso loro e quindi ridurre l'indipendente a qualcosa di major. Questo è un po' l'aspetto strano di quello che è successo a me, nel senso che vieni coinvolto veramente in un mondo che è un mondo fatto di grandi numeri, di grandi cifre, che non c'entrano nulla con quello che ha a che fare con il mondo delle persone sincere che si muovono su quello che sentono. Tu diventi veramente il numero 2012 o 2014. Di un elenco. Di un lungo elenco. Questo non vuol dire che non abbia incontrato delle persone bellissime o di valore. Il problema è che lì ci sono dei problemi di fatturato, delle questioni economiche che comandano tutto. Sono andato a ricercare un mondo di fatto di persone e quindi di rapporti umani e di possibilità di essere veramente me stesso. Anche perché il lavoro che costruiscono loro, le major, è di consumo del personaggio e della musica, non è di sviluppo di un discorso artistico. Quindi non c'è la possibilità che tu arrivi con un brano non fatto e che assieme si costruisce quel mondo lì. Tu devi arrivare con un prodotto già fatto e finito. Non esiste più, vedo degli amici. Allora passiamo alla musica, dai. Così. Passiamo ancora alla musica? Sì, sì, sì. Allora, questa è intitolata Come venire al mondo. Attingo anche qua sempre dal passato, un pochino. Esistono persone salve, liberate dal mio amore. Non capisco come sia possibile ribellarsi a questo male. Il sole non esiste, il sole. Giornata che non saprei come fare a salvare per mille ragioni che porto nel cuore, che non vorrei cominciare a lottare nel bene e nel male prendendo a spallate ogni cosa che come venire al mondo. Lavami l'onta di questa giornata che non saprei come fare a salvare per mille ragioni che porto nel cuore, che non vorrei cominciare a lottare nel bene e nel male prendendo a spallate ogni cosa che come venire al mondo. Come venire al mondo gola profonda volava mi lontana di questa giornata che non saprei. Assolutamente personale, questa è una di quelle che io preferisco. Assolutamente personale. Anch'io devo dire che mi piace moltissimo poi fatta con i musicisti con i quali la suono di norma. È veramente un pezzo. Mi piace molto come questo brano rappresenti un pochino le due facce di cui abbiamo parlato anche prima. C'è una parte melodica, romantica, e una parte invece incisiva, non, in questo caso non sperimentale, ma un pochino punk volendo, comunque che ha a che fare. Che guarda più alla tradizione, una che sì, guarda un pochino. Io amo questa cosa qua, io amo, cioè siamo nel 2000, trovo che abbiamo un passato fantastico e magari negativo in alcuni momenti da cui attingere, un presente discutibile per tante cose, ma la possibilità che c'è oggi di attingere da quel mondo, di miscelare tutto quello che abbiamo davanti è pazzesco, quindi è la follia continuare a promuovere, a produrre sempre le solite stesse robe già premasticate e già capite, già conosciute. Vale la pena di esplorare nuovi mondi. Eh sì, infatti allora quello che sta succedendo a me nello specifico è che è una cosa che mi rende veramente felice, contento, è che adesso io sono qua chitarra e voce. Ieri ero in movimento chitarra e voce, qualche giorno prima ero chitarra, voce e contrabbasso, qualche giorno prima ero chitarra, voce e chitarra elettrica, piuttosto che buzuki e altre cose, un altro momento il trio, un altro momento il duetto con la batteria, cioè, ho altri progetti. Sta succedendo esattamente quel mondo di possibilità che è, per cui sogno e sto aspettando da anni. E allora andiamo a sentire qualcos'altro. Allora, visto che abbiamo parlato dell'inglese prima, proviamo a fare Rotten Flowers, che è un pezzo romantico, visto che abbiamo parlato di cose romantiche. Per inciso, questo è un brano che è uscito per Universal. Il disco Alone di cui parlavamo prima. So cold, I'm not feeling calm, I'm broken by the thorns of losing your love. Useless words I used to lie. I'm grown, but clean. You and me in tune. I'm hoping for June. The world, I'm living so dark without you in my heart. I'm almost alone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Dice che voglia piovere, quindi andiamo ancora con la curiosità. Facciamo ancora una cosa. Chiediamo allora. Facciamo la roba. Sì, va bene. Me la vedete un secondo? Qua... No, per ora anza. Tentiamola. Puoi alzare un po' la chitarra? Ci parla anche di voi, tutti i miei. Grazie mille. Allora, questo è il primo pezzo che ho pubblicato in italiano, intitolato A Gelo. Morte, mi cogli in sonno sul letto del fiume, riscopro il mio nome con un raggio di sole. Voglio quel volto che ancora non ho, e forse il male non c'è, o è se è vero che ami Dio, tu ricercalo in me, che corro nei prati, nei campi stellati, in un bosco di more, col pacco di sale, quel giorno non c'è, in paradiso non c'è più lo spazio per te. Ricordo nel tempo del grano quel gesto capace, quel gioco di mano e quel tono di voce che toglie il respiro nel senso del vino, che scorre sincero nel modo più vero, un giorno migliore che forse non c'è, e forse il male non c'è. Ricordi che al tempo del grano correvi veloce, lontano dal male, lontano dal gelo, che toglie il respiro che quando non c'è. E forse il male non c'è, quando il bene non c'è. E forse il bene non c'è, quando il male non c'è. E forse il bene non c'è. Del fiume, e scopro il mio nome con il braccio di sole, e voglio quel volto che ancora non ho, e forse il male non c'è, o è se è vero che ami Dio. Grazie. Senti, una cosa che noi abbiamo sentito, ascoltandosi, nell'ultimo disco, cioè In costante naufragio, ascoltandola, noi ci abbiamo sentito un po' di Branduardi. Porca, me l'hanno detto che... Me l'hanno detto, sì, non siete i primi. No, non siete i primi. C'è. Lo prendo come un complimento, nel senso che comunque è uno dei maestri. Io... come dicevo prima, non ho una grande esperienza come ascoltatore di musica italiana, quindi Branduardi lo conosco veramente in maniera più che periferica, nel senso che l'ho incrociato in una tangente. Quell'incroci così. Sì, nel senso che ho ascoltato qualche cosa. Ma del mondo italiano ho veramente pochi... punti di riferimento. Sì, nel senso che anche De André che viene citato, che viene utilizzato ultimamente... Non è un mio bagaglio degli anni, dell'infanzia, dell'adolescenza, della mia vita. È un personaggio che ho conosciuto negli ultimi anni, musicalmente. Per quel che riguarda la memoria emotiva, uno come De André, come può essere uno come Branduardi, ha a che fare veramente con i primi momenti della mia vita. in cui probabilmente queste cose passavano per casa, perché alla radio passavano queste cose. E quindi magari dentro nel mio... Poi Branduardi fondamentalmente è uno che ha il mondo del folk nel sangue. L'idea di folk è un qualche cosa che poi si traduce... L'italiano nel parlarlo, nel cantarlo in formato canzone, se vuoi avere un rapporto con la chitarra e con certe sonorità di un certo tipo, vai verso... quel tipo di musica. Esatto. Non c'è molto... cioè, i margini non sono così larghi, come del resto in inglese, se tu scrivi in inglese e lavori in inglese in un certo modo, e se, per esempio, vuoi esprimere una aggressività, una forma di rabbia in qualche modo, il mondo degli anni 90 del grunge ha comunque rappresentato un bacino dal quale fondamentalmente accordi come li usi sono degli accordi che derivano da quel momento lì, li puoi usare oggi ma attingono da quelli. E discorso di prima, si può veramente prendere e utilizzare e ricomporre il puzzle. Prego. Allora facciamo, quando sono entrato in questo luogo c'era su questo brano e lo ripropongo, ho detto, ho bisogno di te. Veramente in questo momento colgo l'attimo per ringraziare il, non so, come proprietario, però proprietario Deus ex machina potrebbe essere. Quest'uomo, per quello che ho scoperto, mi ha contattato la mia casa discografica, entusiasta del disco, da quello che ho capito e da quello che ho proposto musicalmente. Questa cosa è una delle cose che fa la differenza, nel senso che in questo momento della mia vita stanno succedendo queste cose. Io, la mia fortuna è incontrare persone come te che mi permettono, e permettono gente come me che prova a portare avanti questo discorso in Italia, che è così complicato, come è complicato il tuo ruolo, immagino. E l'idea di rete, l'idea di quella che c'è stata passata negli ultimi anni, questo significa, dal mio punto di vista, il fatto che persone si possano incontrare, perché comunque si sono già incontrate prima, arrivano da mondi e da condivisioni talmente alte che il contatto c'è già stato, c'è già qualcosa che corrisponde a tutti. Lasciamo passare una corriera. Non vedo. No. Eccola. Tanto tempo fa un piccolo uomo venne da me e mi disse: facile cantare su questi accordi. Io non me lo sono ancora dimenticato. Io vorrei cagarti in testa. Io vorrei pisciarti in bocca. Ma poi ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Io che saprei cosa dire. Io saprei cosa fare. E tu ho bisogno di te. Io ho bisogno di te. Io saprei cosa dire. Io che saprei cosa fare. Io che saprei cosa dire. Sì, qualcosa per venirti a cercare. Siccome sul sito c'è ancora, esiste ancora il sito. Io saprei cosa fare. Che saprei cosa dire. E soprattutto a chi. Grazie. Ci vuole bene, sì, anche il tempo. Una cosa che mi viene in mente riguardo a un brano come questo, che comunque parla dell'ambiguità e di quello che può essere la difficoltà di essere un uomo che comunque prova sentimenti contrastanti per la stessa persona piuttosto che lo stesso mondo. Io cerco di presentare il più possibile l'uomo nel suo essere uomo, e quindi con dei difetti e con delle, magari degli errori grossi e delle non consapevolezze che poi diventano coscienza lentamente. A me piace presentare questo, non mi interessa fare finta di essere Gesù. Di avere... Beh, nei tuoi testi ci sono sempre le luci e le ombre. Ma sì, perché io credo che l'uomo sia fatto di questo. Chi è che di noi che non, è, non passa da dei momenti di felicità, momenti di tristezza, piuttosto che di rabbia? A me interessa la rabbia come espressione. C'è molta rabbia. Sì, cioè, ma perché si avverte, a me spaventa molto l'idea che in questo paese non si debba avere la forza di incazzarsi, di manifestare, di dire, cioè ormai abbiamo perso la voglia, la forza di dimostrare quello che sentiamo. Non è detto che tutto debba essere a condiscendenza e aggiustare le cose, ogni tanto si può spaccare qualche cosa. Certo, spaccare qualche cosa, l'arte è fatta per questo, per poter spaccare delle cose, per poter devastare delle cose, ma lo stai facendo metaforicamente. Se togliamo anche questa possibilità metaforica di essere esseri umani, cioè qua stiamo riducendo l'uomo a niente, e questo paese sta pagando questa cosa in questo momento. Non c'è permesso, non c'è volontà di permettere alle persone, neanche nei pochi spazi che l'essere umano si è creato, di essere se stesso. Sta roba qua non mi fa incazzare dei livelli enormi. E aver avuto a che fare con un certo tipo di mondo non fa che confrontarti, parlo delle major, non fa che farti capire che è proprio così, cioè che l'interesse è continuare a sostenere un'esistenza mediocre. Perché il mediocre alla fine non si ribella e non ha... Perché non sì, idee, è dirottabile, sì. È comunque... È guidabile. È comunque, sì, conducibile in linee già prestabilite. A me è una cosa che ha fatto molto effetto, che è stata messa a tacere tantissimi, tanti anni fa, e quando in Grecia iniziavano i problemi seri, che i ragazzi, i giovani, iniziavano a manifestare, a essere presenti nelle strade, a dire la loro. Quello che ha pensato il governo, e nessuno lo racconta oggi, è che hanno iniziato a dare gratis l'eroina. Così li hanno seccati tutti quanti, e camminavi per le strade della Grecia, la gente era sbiellata per le strade. Questo è un modo per comunque togliere tutta una serie di possibilità. Questo è un esempio estremo, che però deve servire, secondo me, come monito per tutta una serie di possibilità che dobbiamo concederci. La musica, il teatro, il cinema, l'arte sono quei pochi mondi che rimangono dove veramente, secondo me, si può provare a essere uomini, perché negli altri ci hanno messo veramente in difficoltà. Andiamo avanti. Io vado. Chiediamo alla regia. Quanto no, quanto vuoi? Vado, non c'è problema. Vai. Allora, questa è intitolata Io non resisto. Sperate, mi piace, non posso. Resisto lontano da lei, sento ogni tre passi e parlo di te, rimango sconfitto nell'ordine mio, di chi cerca un difetto nel nome di Dio, morirei qui con lei. Soltanto la nebbia che male mi fa, quando prende a due mani la mia libertà, ed intanto quel treno che mi parla di te, e di come hai sepolto la mia umanità, morirei qui con lei. E se fosse un domani quel tempo migliore vivrei qui con te. E se fosse mio padre a dettarmi un segnale capirei che sia lei. E se fosse mio padre a gettarne le basi morirei con te. E se fosse un domani quel tempo migliore vivrei qui con te, a fianco a me. Io non resisto lontano da lei, se ogni tre passi parla di te, rimango sconfitto nell'ordine mio, di chi cerca un difetto nel nome di Dio, morirei qui con lei. E se fosse domani quel tempo migliore vivrei qui con te. E se fosse mio padre a dettarmi un segnale capirei che sia lei. E se fosse mio padre a gettarne le basi morirei qui con te. E se fosse un domani quel tempo migliore vivrei qui con te, a fianco a me. Io direi di fare un ultimo pezzo, sì, e poi chiudere il Record Store Days, l'abbiamo allungato. Vi faccio una cosa che faccio quando le serate vanno bene, quando sono legato a quello che è la sensazione che mi danno le persone. È un pezzo, è una cover, è un pezzo di Smashing Pumpkins che è intitolato Tonight Tonight, in una versione in realtà intitolata Tonight Tonight Reprise, che Billy Corgan faceva in situazioni tipo bootleg, tipo piccoli EP, quindi chitarre e voce. Io vi ringrazio enormemente per avermi invitato. siamo noi che ringraziamo te che... per avermi intervistato, per avermi fatto delle domande, che è una cosa che si scopre facendo questo lavoro. Ricevere delle domande è bellissimo mentre suona, perché ti permette di entrare e uscire dalle canzoni in un mondo sempre nuovo, sempre diverso. Quindi grazie anche a te. Grazie a te. E grazie a voi per chi ha ascoltato, è stato qua. E continuate a comprare dischi. Perché siamo qua anche per questo. Diciamolo. È fondamentale che sopravvivano. E questo è Tonight Tonight. Of a fade in the seated by the lake, the place where I was born. Was a one of toys and now a mouthful in the sound of the life in the underground. Believe. Crucify the insincere tonight, tonight. The impossible is possible tonight, tonight. Believe in me, like I believe in you. Crucify the pitfall tonight, tonight. Impossible is possible tonight, tonight. Believe in me, like I believe in you. Grazie, grazie, grazie a tutti. E una fuori anch'io. Wow, wow. Beh, com'è andata? Che bellezza. Sì.